Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Subito scrive un ascoltatore: spero che il programma di oggi non sia una palla come quello di ieri. Un attimo, adesso vediamo. Mi auguro anch'io di no, in generale. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria: al di là delle borse positive, anche se hanno un po' ritracciato, più 0,70% Milano, più 1% Parigi, più 0,30% Francoforte e meno 0,40% in questo momento l'America. Londra guadagna invece lo 0,20%. I temi oggi si chiamano lotta all'evasione, nel senso che c'è stata l'audizione del numero uno dell'Agenzia delle Entrate, e mi riferisco chiaramente a Tilio Befera, a due giorni nemmeno dalle nuove controlli, quelli che hanno coinvolto i locali, ma non solo, del centro di Milano. E Befera ha fornito alcune cifre, quasi 11 miliardi recuperati. Il punto è, qui si tratta, tutta l'attività di questi giorni, di queste settimane, è concentrata a recuperare l'evasione realizzatasi, oppure avrà ed ha anche una chiave, per così dire, prospettica, e cioè serve per ridurre l'evasione futura, perché nel primo caso andiamo a recuperare un reato già commesso con anche lunghi contenziosi con lo Stato. Altra cosa invece, se tutta questa attività avesse una tale forza simbolica da produrre il cosiddetto effetto Visco. Ricorderete la paura, è inutile nascondersi dietro le parole, la paura per quello che era considerato da alcuni il vampiro Visco, vice ministro dell'economia nell'ultimo governo Prodi, ministro Padoa-Schioppa, portò, con sorpresa dello stesso Padoa-Schioppa, lo ricorderete, al famoso tesoretto, cioè a 10 miliardi di incasso in più come gettito, che molti attribuirono sì a tanti elementi, ma anche alla paura, e quindi a dichiarazioni un po' più congruenti rispetto a quelle precedenti. Da sempre si sa che a livello fiscale non c'è solo il calcolo costi-benefici in senso stretto, c'è anche la probabilità di essere scoperti, che non è una certezza, ma semplicemente cambia l'atteggiamento del contribuente. Se ritiene che vi siano più possibilità di essere scoperti, quindi ritiene meno conveniente, passatemi il termine, evadere così tanto. Nessuno, nemmeno nei paesi più scandinavi, non esiste l'evasione, ma il problema è l'ammontare di questa evasione. Ne parleremo tra breve, anzi proprio in apertura. L'altro tema grosso di oggi riguarda la disoccupazione, perché c'è un allarme dell'Unione Europea, ma soprattutto in Unione Europea siamo arrivati al più alto livello di disoccupazione da quando è nato l'euro, e cioè dal giugno del 98, anzi prima quindi dell'introduzione dell'euro. L'Italia purtroppo non fa eccezione. Chi fa eccezione invece è la Germania, che ha visto diminuire la disoccupazione ed è scesa al 6,7%, ai minimi da 20 anni a questa parte. La Germania è un'isola in questo momento in Europa, ha tassi di interesse reali negativi, cioè conviene indebitarsi alla Germania. Sta ottenendo tutti i benefici di questa crisi, perché è considerato il paese più solido, più virtuoso. E quindi laddove si vende o si fa pagare caro un finanziamento al debito italiano o spagnolo, si è disposti anche a non guadagnare, a perderci qualcosa pur di avere degli stabili bund o obbligazioni tedesche. Ma è anche avvantaggiata a livello di export, e lo vediamo anche sulla disoccupazione. Ancora, in Italia invece il dato sulla disoccupazione è allarmante, soprattutto sul fronte giovanile. Andiamo con ordine. A dicembre è ai massimi la disoccupazione dal 2004, il numero dei disoccupati è tornato su livelli, non quindi come tasso all'8-9%, ma su livelli assoluti come numero, alle serie trimestrali si torna ai livelli di 10 anni fa, cioè trimestre 2001, e ancora il tasso di disoccupazione giovanile schizza al 31%, siamo a 3 punti percentuali in più rispetto al 2010. Su questo e di questo anche su questo è intervenuto il ministro Fornero. Ascoltiamo questo passaggio a margine di un'audizione alla Camera, al microfono del nostro Vincenzo Miglietta. La mia principale preoccupazione, vado a lavorare proprio per questa questione, lavoro. E certo, io vorrei che la gente lavorasse. Ma le ho detto che è la mia preoccupazione, l'Europa vuole collaborare con noi e noi lavoreremo, e questa riforma delle pensioni ha il lavoro e l'occupazione come prima preoccupazione, siccome i giovani e le donne hanno poco lavoro e noi lavoriamo in quella direzione. E quindi disoccupazione da un lato, lotta all'evasione dall'altro, e anche il caso, ve lo anticipo subito, di chi ha perso il lavoro, e purtroppo come vediamo da questi dati non è l'unico, ma ha perso il lavoro perché i suoi giudizi su alcune, lui lavorava come analista, su alcune società che si chiamavano poi Burani, fallita con indagine alla magistratura, Parmalat, che lo dico a fare. Ebbene, i suoi report, come si chiamano quelli degli analisti, non piacevano al cliente Burani e Parmalat, e quindi lui è stato espulso dalla società di analisi dove lavorava, di analisi, è una sim sostanzialmente. Questo lo raccontiamo perché un po' come quando si dice attenzione, le agenzie di rating sono in forte conflitto di interessi e guadagnano da quello che viene pagato, da come vengono pagate dal cliente. Allora, se un cliente è molto facoltoso e ti paga tante commissioni, forse il tuo giudizio è un po' più morbido. Allo stesso modo anche le società di analisi, voi sapete che io non accetto di sentire i report delle banche d'affari perché sono sempre in conflitto di interessi, perché finché tu non mi dici quanto sei investito su quel titolo che vai a giudicare, io non mi fido, perché magari con la destra lo giudichi, e con la sinistra lo vendi. Ebbene, avremo anche un racconto interessante su come funzioni da dentro il mondo delle analisi, non tutte per carità, però insomma. La borsa intanto, Popolare di Milano più 4,80, Unicredit più 4,50, Salvatore Ferragamo più 4,40, Intesa San Paolo più 3,40, Autogrill più 3,30, Azimut più 3, Banco Popolare più 2,5 come Mediaset, Prismian più 2,30, Saipem più 1,70 come Monte dei Paschi, negativa e anche pesantemente Fiat Industrial meno 5%, quindi camion e trattori, Mediobanca meno 3,90. ST Microelectronics meno 2, Generali meno 1,80, Impregilo meno 1,30 come la Popolare dell'Emilia Romagna. C'è poi la vicenda Benetton, titolo sospeso su voci di un interessamento di Zara, il colosso spagnolo, il Benetton spagnolo, vogliamo dirla tutta, quella che ha rubato anche quote a Benetton, che insomma l'Italia negli anni 80 era leader nella moda a basso costo, Stefanelli, Benetton, poi ci siamo un po' persi per strada, H&M ci ha superato Zara, peccato. Non so come scrive qualcuno se Benetton si sia distratto, perché Autogrill è una società sul mercato bella, che ha quote importanti in America, 50% del fatturato in America. La gestione di Autostrade per l'Italia, Atlantia, beh, lì sì, lì fai più rentier, vivi di rendita, di pedaggi autostradali, sei meno diciamo sul mercato, mettiamo, forse questo ha un po' distratto la famiglia. Comunque Zara ha poi smentito, ma c'è un tema forte che riguarda Benetton, che oggi ha guadagnato il 9,30%, il tema sospeso poi il titolo, ossia il delisting, il togliere il titolo dal mercato, ne parleremo durante la borsa. Sul lavoro vi do anche però un'altra indicazione, a dicembre c'è stato anche il record di disoccupazione maschile, dicembre 2011, all'8,4%, anche qui il più alto dal gennaio 2004, da quando esistono le serie storiche mensili. Ci siamo bruciati, inutile girarci attorno, anche qui ci siamo bruciati 10 anni di riduzione della disoccupazione con questi ultimi 3 anni di crisi. Allora, molte domande, ma se si allunga l'età pensionabile come fanno i giovani a trovare lavoro? No, quando l'attuale ministro Fornero era nostro ospite come economista e come studioso del mondo del lavoro, più volte ha chiarito come l'occupazione non sia una torta definita, varia a seconda della crescita economica, per cui tu hai disoccupati o non occupati a seconda che l'economia sia in espansione o in recessione. Non è il posto del 65enne, non ruba il posto al 25enne, non funziona così, non c'è un numero fisso di occupati in un paese per cui se tu resti al lavoro 2 anni in più lo stai rubando a un altro. So che è molto semplice il cortocircuito, ma non funziona così in nessun paese, neanche in Italia. Tant'è che non c'è nessuna correlazione tra l'età in cui vai in pensione e l'occupazione di quel paese. Ci sono paesi che hanno un'età alta per andare in pensione e altissima occupazione, paesi che hanno un'età bassa e altissima disoccupazione, per cui vi arriveremo alla disoccupazione, però adesso vorrei occuparmi dei costi della politica. €6 milioni dovrebbero valere i tagli al Senato, o meglio la decisione, presa anche alla Camera, di decurtare del 13% le indennità dei parlamentari. Ma a differenza della Camera, questo taglio verrà destinato per ridurre il bilancio. Lo ha annunciato il questore Paolo Franco della Lega, che ha proposto la correzione di circa €6 milioni. E tra l'altro il presidente del Senato, Renato Schifani, ha chiarito che il Senato si appresta a compiere ulteriori passi in avanti verso il taglio dei costi della politica. Per esempio, verranno tagliati una serie di benefit di cui attualmente godono gli ex presidenti del Senato, ma non ha quantificato i risparmi. E poi ha fatto eco a stretto giro il presidente della Camera Gianfranco Fini, che ha detto: parlerò con Schifani e sono d'accordo con lui, prenderemo decisioni, e quindi stop ai benefit per gli ex presidenti della Camera. È d'accordo su questo anche Fini, speriamo. E poi avete letto, insomma, Via Libera il taglio dello stipendio dei deputati maggiorato di un 10% per quanto riguarda le figure apicali, e cioè quelle di vertice, e anche per i deputati titolari di incarichi istituzionali, presidente della Camera, vicepresidente, deputati questori, segretario di presidenza, obbligo di rendicontare il 50% dei rimborsi ai portaborse. Cioè, la cosa che fa notizia qui è che è strano che non lo facessero prima, ma insomma. E il ministro Brunetta ha detto: non sono tanto i parlamentari a essere pagati troppo, ma è il personale delle Camere a costare. Sentiamo. La decisione che avevamo preso come governo Berlusconi era quello di avere i costi dei parlamentari italiani convergenti, gli stessi di quelli europei. E questo è quanto stiamo realizzando. Stiamo verificando, tra l'altro, delle cose molto divertenti. Che i parlamentari non sono tanto i parlamentari a essere pagati troppo in Italia, quanto, come dire, il personale delle Camere, della Camera, della struttura, Senato. Insomma. La struttura è perché molti funzionari, per poi arrivare a dirigenti intermedi, per non arrivare ai commessi, hanno remunerazioni paragonabili, se non di multipli, di quelli dei parlamentari. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Sì, io vorrei dire a Brunetta che le due cose non sono in opposizione, cioè si possono ridurre, come sto fatto, del 10%, forse anche qualcosa di più, i costi dei parlamentari, deputati e senatori, e ridurre i costi dei dipendenti della Camera e del Senato. Cioè, l'approccio non può essere il benaltrismo, eh? Non siamo noi a costare, sono gli altri, perché sennò è lo stesso approccio quando si vanno a toccare sulle liberalizzazioni di varie categorie. No, sono gli altri che vanno liberalizzati, o quando si parla di evasione fiscale. Nel frattempo raccontiamo questa crisi, perché c'è un aumento storico in Francia del prezzo della baguette al burro e prosciutto, il tradizionale filoncino di pane imbottito. Pensate che, insomma, per la Francia, come il piatto di spaghetti quasi per noi, è passato tra il 2009 e il 2010, è aumentato del 5%. E questo a dimostrazione che, insomma, non tutti, anzi in tutti i paesi viviamo gli stessi problemi. In Francia c'è anche un indice economico che si chiama jambon beurre, cioè l'indice del panino pane, burro e prosciutto, che assomiglia un po' all'indice Big Mac che usa l'Economist. Non era mai aumentato questo indice, quindi il prezzo del panino base in Francia, invece è schizzato, significa 2 miliardi di baguette consumate l'anno scorso a burro e prosciutto, schizzato del 5%. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? E poi una vicenda assurda, ci sono dei problemi, o meglio, la mancanza di finanziamenti nell'aula Bachelet a Bologna, dove si sta svolgendo il processo d'appello per il crack Parmalat, fa sì che i termosifoni facciano un rumore tale, non sto scherzando, facciano un rumore tale per cui il forte crepitio, recitano le agenzie, prodotto dai vecchi termosifoni dell'aula, ha obbligato a interrompere l'udienza. Il PG Alberto Candi stava per concludere la requisitoria, ma praticamente il rumore era così forte dell'impianto di riscaldamento, che sta ovviamente per tirare gli ultimi colpi, che hanno dovuto sospendere l'udienza e alla ricerca di un'eventuale altra aula disponibile. E questa era l'udienza per il processo di appello del crack Parmalat, figuriamoci le altre. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Allora, c'è chi dice, ma insomma, chi decide gli stipendi dei commessi e dei funzionari, per rispondere a Brunetta? Sì, ha ragione anche su questo. Perché poi gli stipendi dei commessi e dei funzionari immagino passino anche da una decisione del Parlamento. Dopodiché ragioniamo sugli uscieri, se servono tutti, sui barbieri e quant'altro. Però questo ragionamento si può fare una volta che tu, deputato o senatore, ti sei già ridotto lo stipendio in maniera considerevole. Devo dire che i mugugni sono stati pochi questa volta, a dimostrazione che forse anche nelle alte sfere dei palazzi della politica qualcosa si inizia a capire sulla situazione del resto del paese. Parliamo di disoccupazione. Non disoccupazione, volevo dire, ma fisco. Perché? Perché su questo è intervenuto anche il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, dicendo: attenzione, non si può continuare come negli scorsi decenni a vivere al di sopra delle proprie possibilità, come è avvenuto, anche se questo non vale per tutti i ceti sociali. Coesione sociale non può significare immobilismo. Io credo di dover richiamare molto a questa esigenza. Stiamo attenti, ci sono spinte troppo conservatrici presenti oggi nella nostra società. Non si può continuare ad andare avanti come si è andati avanti per decenni. Io credo che si possa discutere se sia corretto dire che si è vissuti anche in Italia e in Europa e in America al di sopra delle proprie possibilità. E certamente questa è una sentenza che va molto analizzata. È facile rispondere che non tutti i gruppi sociali hanno vissuto al di sopra di quelle che sarebbero state altrimenti, senza per esempio il forte intervento della spesa pubblica, le loro possibilità. Però molto deve cambiare nei comportamenti, nelle posizioni acquisite, nelle aspettative. Dobbiamo fare i conti con un mondo che è radicalmente diverso, non da quello di 40 anni fa, ma anche da quello di 20 anni fa. Questo nel giorno in cui il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, ha parlato alla Camera in audizione, ha spiegato che nel 2011 vi sono stati 2 milioni di controlli, 11.500 hanno riguardato indagini finanziarie, complessivamente recuperati 1 miliardo di euro sulle indagini finanziarie. Dalla lotta all'evasione invece complessivamente 11 miliardi e mezzo nel 2011. Finora in Italia, ha detto Befera, la furbizia è di corta veduta. Ci sono sostanzialmente 3.100 grandi imprese che hanno il tutor fiscale, cioè vuol dire che i contribuenti sono affiancati da un dipendente del fisco, ed è una misura, il tutoraggio, che è entrata a pieno regime. Figurati che contente che sono queste 3.100 imprese di avere il tutor fiscale dentro. Però i grandi contribuenti, ha precisato Befera, passano quindi da 2.000 a oltre 3.100 quelli assistiti dal tutor fiscale. E poi l'annuncio che il nuovo redditometro arriverà entro il primo semestre del 2012. Con particolare riferimento al cosiddetto redditometro, è stato individuato un modello di valorizzazione degli elementi indicativi di capacità contributiva attraverso l'analisi di campioni significativi di contribuenti differenziati in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza. L'analisi ha riguardato oltre 22 milioni di famiglie, ovvero circa 50 milioni di soggetti. Nel nuovo redditometro sono state individuate e valorizzate ben 100 voci di spesa. Attualmente il modello di valorizzazione predisposto è in fase di sperimentazione da parte delle organizzazioni sindacali, delle associazioni categorie e degli ordini professionali che hanno aderito alla richiesta di collaborazione e confronto da parte dell'agenzia. L'attività di sperimentazione si concluderà nel mese di febbraio 2012. Sulla base del lavoro svolto e degli esiti della citata attività di sperimentazione verrà realizzato e messo a disposizione dei contribuenti un software standing alone. Detto software costituirà per il contribuente uno strumento di orientamento sulla coerenza del reddito dichiarato rispetto alla capacità di spesa sostenuto nel corso dell'anno. Parallelamente si sta procedendo alla realizzazione di un applicativo basato sul citato modello di valorizzazione per potenziare l'attività di analisi del rischio di evasione e quindi di selezione di significative posizioni soggettive nei cui confronti procedere con l'attività di controllo. Il nuovo redditometro sarà operativo entro il primo semestre del corrente anno. E poi sempre Befera ha chiarito, oltre alla partenza del redditometro, quante intimidazioni abbia subito Equitalia. 250 intimidazioni. 70 solo nel 2012, quindi in un mese. Io dico una cosa: uno può contestare a tutte le vie legali per farlo, intimidire chi sostanzialmente sta facendo il suo lavoro, perché poi possiamo ragionare di tutto, ma la riscossione delle entrate, la riscossione delle tasse in tutti i paesi civili del mondo è una cosa civile, non è una cosa incivile. Poi possiamo ragionare se sia giusto accanirsi sugli studi di settore con gli artigiani, dove l'evasione magari è molto bassa, e non concentrarsi, come sta facendo invece, su grandi evasori o totali evasori. Ma non si può mettere in discussione il principio che chi viene a controllare quanto è guadagnato sta facendo il suo lavoro. Befera su questo. Durante gli ultimi sei mesi del 2011 si è verificato un crescendo di iniziative di contestazione, cominciate con attacchi verbali e degenerate poi in vere e proprie manifestazioni di violenza contro il personale e le sedi. Già a maggio un dipendente di Equitalia veniva sequestrato e aggredito per il solo fatto di dover notificare una cartella di pagamento. L'ostilità ha toccato l'apice lo scorso 9 dicembre, quando un pacco bomba è esploso nelle mani del direttore generale. Al grave attentato sono seguite lettere minatorie e atti intimidatori di vario tipo che hanno superato dall'inizio dello scorso anno il numero di 250, di cui 70 solo a gennaio di quest'anno. Questo stato di cose ha provocato ovviamente demotivazione e paura tra i dipendenti del gruppo Equitalia, con evidenti e prevedibili riflessi sull'attività, come peraltro evidenziato anche dalle organizzazioni sindacali di categoria, con una lettera al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio. Allora, così Attilio Befera. Sì, devo dire un paio di cose, scrivete, ma insomma, Befera guadagna 460.000 euro l'anno, è vero, è stato quello che non risulta, è un po' tanto, non lo so, poco non è sicuramente, magari il gesto andrebbe fatto anche da Tilio Befera, andrebbe fatto anche dal Presidente della Repubblica Napolitano, perché i costi del Quirinale sono altissimi. È vero che non sono cresciuti, ma il Quirinale costa quasi il doppio rispetto a Buckingham Palace ora, no? Per dar tutti l'esempio. Ma insomma, che cosa è successo dal 30 di dicembre? A Cortina, l'abbiamo detto più volte, tutti gli scontrini fiscali dei ristoranti, dei bar che venivano controllati erano del 400% più alti rispetto al giorno prima, del 300% più alti gli incassi nei ristoranti, addirittura del 600% nei bar. E poi tutte le auto di lusso beccate con intestate a persone con redditi IRPEF da meno di 30.000 euro lordi l'anno. Vogliamo difendere questi soggetti? No, vero? Anche perché poi con quella cifra beccano pure le agevolazioni fiscali per l'asilo, per la scuola. 14 gennaio a Roma, metà dei negozianti non faceva gli scontrini di quelli controllati. 6 gennaio in Liguria, un commerciante su 10 multato perché non aveva rilasciato lo scontrino fiscale. Parliamo di Portofino, Chiavari e Santa Margherita Ligure. E poi il blitz di Milano, il primo sabato notte, pensate, in tutti i locali gli incassi sono lievitati del 44%, addirittura del 200%, tutti fuori quel sabato sera lì gli esercenti. E poi domenica il blitz 2, 230 negozi, bar, ristoranti. Allora, il 30% non hanno emesso scontrino ricevuto fiscale, sequestrati un centinaio di capi di abbigliamento e accessori contraffatti, e poi tutti i lavoratori in nero. Professor Tommaso Di Tanno insegna diritto tributario all'Università di Siena, buonasera. Buonasera. Ed è uno dei massimi tributaristi italiani. Vedo molti messaggi sulle nostre basi musicali, vabbè. Ogni tanto le cambiamo, se piacciono le teniamo, se invece me le criticate le cambiamo di nuovo, non è un problema. Dunque, c'è chi dice che sto difendendo la mafia di Stato come Equitalia. No, guardate, non esiste la mafia di Stato, esiste la mafia e basta. Poi esiste lo Stato inefficiente, lo Stato che spreca, lo Stato corrotto, ma la mafia, chi parla così ha la coscienza sporca. Comunque, Di Tanno, dopo il metodo della pubblicità, io vorrei sapere una cosa da lei. Questo lavoro che sta facendo la GDF, l'Equitalia, servirà, come ha detto Befera, a recuperare i miliardi evasi o potrà avere un effetto, mi passi il termine, civico nel futuro? Perché se no andiamo sempre a rincorrere evasioni e reati già commessi. La risposta dopo il meteo, 349-238-6666 per i vostri sms. ...17:40 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso arriviamo anche alla borsa, 0,5% la chiusura. Ma professor Di Tanno, ragioniamo, visto che adesso abbiamo raccolto anche abbastanza materiale in questo mese, no, da Cortina in poi. Prima domanda che molti fanno: ma questi finanzieri, l'agenzia di entrate, dove erano prima? Cioè, non si poteva fare prima, in effetti, fermare un SUV di lusso, una macchina di lusso, e chiedere, mi scusi, hanno beccato che praticamente erano tutti nulla tenenti quelli che hanno fermato a Milano, buona parte. Non si poteva fare prima? Sì, si poteva fare anche prima, e devo dire che gli strumenti per farlo anche prima esistevano. Il decreto Monti, il decreto Salva Italia, ha introdotto alcuni miglioramenti, ha introdotto degli snellimenti nelle procedure di analisi dei conti bancari, ma per il resto gli strumenti esistevano anche prima. La ragione per la quale non si è fatto prima è che prima non c'era, diciamo così, un consenso politico, una copertura politica nell'azione dell'amministrazione finanziaria. D'altronde, quando l'amministrazione finanziaria si muove, crea un certo timore, un certo malcontento in alcune categorie. Queste categorie si è visto quando c'è stata l'indagine a Cortina, lì si è visto il sindaco di Cortina scendere in campo in prima persona, sì, per difendere i suoi contribuenti, e badi bene, non tutti i suoi contribuenti, perché anche a Cortina ci saranno dei pensionati, a Cortina ci saranno dei dipendenti del comune di Cortina che saranno stati ben felici di vedere l'azione dell'Agenzia delle Entrate, ma il sindaco di Cortina difendeva alcuni cortinesi, i cortinesi commerciali, i cortinesi baristi. Sì, ecco, questa è la parte dell'atteggiamento culturale. Cioè, voglio dire, uno può dire non controllate solo noi, ma non può dire non controllate noi. Perché, insomma, lei ha fatto capire molto bene che c'è una, in primo luogo, ci deve essere una volontà politica. Adesso, più volte abbiamo elogiato il ministro Tremonti per come ha tenuto botta sul deficit. Abbiamo anche criticato il ministro Tremonti che una delle prime iniziative che prese quando tornò al governo è eliminare un insieme di norme volute dall'allora viceministro Visco. Che e poi contemporaneamente varare lo scudo fiscale. È chiaro che il messaggio che arriva è: ragazzi, insomma, siamo più laschi sulla lotta all'evasione. Poi devo dire che Tremonti nell'ultima parte ha reintrodotto, penso, la tracciabilità, ha riabbassato i livelli, l'assegno. L'ha reintrodotta a luglio del 2011 sotto pressione soprattutto degli altri membri della Comunità Europea, quindi se avesse dovuto farle per conto proprio... Anche perché Tremonti da tributarista conosce molto bene i problemi dell'evasione fiscale italiana. Allora, secondo aspetto che su cui molti ci interrogano al 349-238-6666... Perché solo al nord? Va bene Cortina, Portofino, Milano, la Liguria, ma insomma, molti scrivono, ma perché non vanno mai a controllare a Napoli, a Reggio Calabria? Perché... perché si va a cercare la ricchezza dove effettivamente c'è, e non c'è dubbio che c'è più ricchezza al nord che al sud. Al sud c'è ricchezza durante i periodi estivi, per cui mi meraviglierei se l'Agenzia delle Entrate per esempio non andasse a Positano, non andasse a Capri, non andasse a Porto Cervo, se non andasse a questi posti, ma in questi posti ci si va d'estate, non ci si va d'inverno. Quindi lei dice in effetti la ricchezza, escludendo le mafie, perché lì non è un problema di evasione fiscale, lì è un problema di criminalità organizzata, ma lei dice si concentrano laddove ce n'è di più. L'idea che il controllo non venga solo fatto classicamente come una volta, cioè entra la Guardia di Finanza, chiede libri contabili e quant'altro, ma l'idea di fermare la macchina e dire scusi, è una macchina che vale 80, 90, 100 mila euro, e prendere diciamo i riferimenti della persona, la convince? Sì, mi convince per questa ragione. Allora, quando noi parliamo di recupero dell'evasione fiscale, quando leggiamo i dati sui giornali recuperati 11 miliardi di evasione fiscale nel 2011, da dove vengono questi 11 miliardi? Questi 11 miliardi vengono dal passato, cioè l'Agenzia delle Entrate ha accertato la veridicità delle dichiarazioni presentate nei 5 anni precedenti da parte dei contribuenti e ha ritenuto che molte di queste dichiarazioni fossero infedeli, le ha contestate e ha avuto successo, nel senso che i contribuenti hanno messo mano al portafoglio in qualche modo, in sede contenziosa o accettando direttamente l'accertamento, certo, o attraverso una transazione hanno pagato 11 miliardi di euro. E questo è un tipo di azione che l'amministrazione finanziaria che deve svolgere, cioè la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese negli anni precedenti, e questa è una funzione. Ma poi c'è una seconda funzione. La seconda funzione dovrebbe essere quella, come dire, di trasmettere al contribuente il messaggio che è osservato, perché l'evasione italiana non è fatta di grandi evasori, ma è fatta di numerosissimi piccoli evasori, e questi numerosissimi piccoli evasori evadono facendo una valutazione probabilistica. Quante probabilità ci sono che io venga scoperto? Se ce ne sono poche, evado per l'80%. Se ce ne sono molte, magari evado lo stesso, ma evado per il 20%. E torniamo al ragionamento che altre volte abbiamo fatto, cioè portare l'Italia a un'evasione accettabile. Alcuni si sono arrabbiati, hanno scritto ma l'evasione non è mai accettabile. Siamo d'accordo, anche le bugie non dovrebbero esistere, però un conto è avere un tasso accettabile di bugie e un conto è avere un ballista cronico, se mi passa del termine. Allora, in questo caso noi abbiamo un paese con oltre 200 miliardi di imponibile che sfugge, sono 300 miliardi, sono almeno 120 miliardi di IRPEF, IRES, IVA, IRAP non versate. Stiamo parlando della bellezza di 6-7 anni di manovre finanziarie. E con questa cifra noi potremo tranquillamente mettere in sicurezza i conti pubblici senza dover fare manovre aggiuntive. Allora, nessuno vuole recuperare tutti i 120 miliardi, ma immaginate se ne recuperassimo il 50%, 60 miliardi, stiamo parlando di 4 anni di manovre finanziarie. Lei immagina quindi di tanno che vi possa essere un effetto Visco, come l'avevo chiamato all'inizio, cioè che prendendo paura il contribuente continui a evadere, ma meno? Ritengo credibile che questi interventi dell'amministrazione finanziaria possano ridurre consistentemente l'evasione fiscale attuale, Cioè lo ritengo credibile per queste ragioni. È del tutto evidente che l'amministrazione finanziaria dispone già di un pacchetto di informazioni molto significativo. Basta usare questo pacchetto di informazioni, basta usarlo con una media diligenza perché l'evasione fiscale venga recuperata. Lei diceva prima se era necessario andare a fermare i SUV a Cortina. Beh, è necessario andare a fermare i SUV a Cortina perché un conto sono i SUV che appartengono a soggetti che dichiarano 30.000 euro di reddito e quello è un accertamento relativamente facile che si può fare anche a tavolino, ma si è verificato a Cortina che un certo numero di questi SUV appartenevano a delle società, quindi non si identificava la persona fisica che godeva del beneficio di questa autovettura, no? Allora per verificare che il signor Tizio è l'effettivo Dominus, è colui che gode dell'X6 BMW, bisogna coglierlo con le mani nel sacco, cioè bisogna coglierlo al volante di quella vettura e poi venga a giustificare che alle 2 di notte andando al night lo stava facendo per ragioni imprenditoriali, diciamo, per ragioni professionali. Oddio, anche i tavoli del night hanno conosciuto più di una transazione d'affari, però insomma dubito che possa essere questo il motivo di qualcuno che può. Allora io ho il traffico, poi vorrei concludere con lei, Titano, però una cosa devo dare ragione agli ascoltatori, la spiegazione sul sud mi ha convinto in parte, cioè lei dice giustamente, per carità, cioè il turismo a Capri, Positano d'estate andranno lì, però la movida, come scrivono alcuni ascoltatori, il sabato sera c'è anche a Palermo, a Roma, a Napoli, non è che ci sia più paura, oppure insomma, in aree dove c'è anche un tasso di criminalità più alta, l'agenzia di entrata e molli il colpo prima. Questo mi interessava capire perché sarebbe profondamente ingiusto. Dopo il traffico la risposta. Allora, al di là di che stanno arrivando casi, racconti, a Napoli l'esattore per il recupero crediti della nostra azienda non riesce a trovare nemmeno la casa del debitore nonostante abbia nome, cognome e indirizzo. Non è che il tasso di illegalità di Tanno al sud in alcune parti sia così alto da non far nemmeno venire voglia di fare, cioè che sia più facile controllare Milano, Corso Como, Cortina, Portofino, perché con tutta l'evasione che c'è, ce n'è tanta, almeno diciamo se ancora in uno stato dove c'è il controllo delle forze dell'ordine, mettiamolo così. Temo che questa considerazione sia una considerazione fondata. Mi rendo conto che c'è un tasso di ingiustizia nel controllare più il nord che il sud, ma non c'è dubbio che controllare il nord rende di più, è meno difficile e al tempo stesso rende di più, perché al sud c'è una maggiore evasione in termini percentuali, ma se andiamo a vedere gli importi evasi del nord sono molto maggiori degli importi evasi del sud. Quindi perché c'è più ricchezza, no? Cioè come volumi, c'è più ricchezza, il grasso sta lì, anche se come percentuale al sud si evade di più. Sì, magari al sud si evade l'80%, ma l'80% di 10 è 2, e a nord si evade magari il 25%, ma il 25% di 100 fa 25. Certo. L'ultima domanda che ho per lei è questa, fermo restando che lei ritiene che vi sarà un effetto visco, cioè che di riffo di raffa uno inizierà a dire beh aspetta un attimo che dichiaro un po' di più e già questo produrrà un beneficio senza aver bisogno dei controlli se tutto andrà come deve, ma non è cambiata, oltre che chiaro che la Guardia di Finanza e Equitalia si sentono appoggiate da questo governo e c'è una volontà politica, ma non è cambiato anche l'atteggiamento? Per esempio alcuni scrivono ma perché non controllano i dentisti, i medici, gli avvocati, i liberi professionisti? Sembra quasi che la nuova tecnica sia quella di beccare i dentisti, i medici, gli avvocati, i professionisti, chi vuole, quando sono al ristorante, quando vanno fuori a teatro, quando vanno in discoteca, e non andare a chiedere spiegazioni invece nell'ufficio, nello studio o quant'altro. Beh, non mi risulta che le cose avvengano così, cioè mi risulta che ci sono delle categorie che vengono esaminate a tappeto, non sarà stato ancora il turno dei dentisti o degli odontotecnici, ma insomma arriverà. Per cui lei dice non è un cambio di modalità nel... No, non mi pare che sia questo il contesto. Il contesto è semplicemente quello di avere da un lato gli strumenti e dall'altro come dire, l'appoggio politico, il sostegno politico per poterli effettivamente utilizzare. E in questo senso c'è stato un cambiamento epocale. Mm-mm. Aggiungiamo il fatto che c'è un grande consenso nei confronti di questi interventi. Sì, no, non nei miei ascoltatori, perché mi stanno massacrando. Però magari scrive chi è più critico, chi è d'accordo non scrive. Comunque, no, sono d'accordo anch'io che, io lo dico fin dall'inizio, se questo governo scontenterà tutti, evasori, dipendenti, politici, liberi professionisti, partite IVA, pensionati, forse terrà botta, perché se lo scontentano tutti, che poi tu sei scontento come singolo individuo, ma sei contento perché hanno colpito anche gli altri su altri fronti. È brutto dirlo, ma è così. Grazie a Tommaso Di Tanno, docente di diritto tributario all'Università di Siena, la borsa. Allora, gli insulti, no, dai, nevica, perché anche gli insulti? Più 0,50 lo dico, qualcuno che pensa. Sì, guardate, parliamo di tutto quello che volete, anche di oppressione fiscale, però una cosa lasciate che ve la dica. C'è chi l'oppressione fiscale ce l'ha per contratto, cioè i lavoratori dipendenti, del privato, del pubblico, manager o segretario, non mi interessa, quelle aliquote di cui molti si lamentano ce le hanno già in busta paga. Allora non si capisce perché quello diventa soffocante per alcuni l'aliquota del 43 e altri ce l'hanno stabilmente in busta paga, magari dichiarando tutti i soldi che guadagnano, magari perché hanno 100.000 euro lordi o hanno le aliquote decise dallo Stato. Cioè è come se una parte del paese si fosse abituata che non doveva pagare quello che lo Stato chiedeva, mentre un'altra parte lo deve fare e basta. Comunque, Livia Zancanella, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Rimbalzano oggi le... Tu sei preoccupata per le indagini della finanza sulle macchine, sui SUV? Ma personalmente no, per gli altri che li hanno sì. Preoccupata per gli altri non ti crederò mai. Meno 5,20% Fiat Industrial, meno 3,70% Mediobanca, meno 2,60% Popolare Emilia Romagna, meno 2,30% Generali, meno 2,12% ST Micro Electronics. E ancora invece bene Unicredit più 6,34%, tutte le banche oggi bene. Popolare di Milano più 4,40%, Ferragamo più 4,8%, Autogrill più 3,14%, come Intesa San Paolo, il 3% il Banco Popolare di guadagno, Mediaset il 2,70%, Prismian il 2,60%, Azimut il 2,30%. Poi continueremo dopo il GR, ma parliamo di Benetton, perché è stato oggetto di tutto oggi. Prima le voci che Zara voleva comprarsela, poi smentite, poi il delisting, sospesa dalla borsa, ultimo prezzo 4,05€ più 9,30%. Allora, il titolo, come dicevi tu, in mattinata è arrivato a guadagnare oltre il 9% appunto sulle voci relative a un possibile interesse da parte di Zara, voci smentite dalla società. La borsa italiana ha poi deciso di sospendere il titolo in attesa di un comunicato e verso metà seduta la famiglia Benetton ha quindi annunciato di avere allo studio, attraverso Edizione, che è la società che controlla Benetton, il lancio di un'offerta pubblica sulle azioni non ancora detenute. Il titolo rimarrà sospeso fino a domani, quando si riuniranno proprio gli organi societari di Edizione per prendere quindi una decisione sull'operazione, quindi comunque i dettagli dell'operazione verranno resi noti al mercato domani. Allora, ancora, giustamente scrive un ascoltatore, anche molti autonomi pagano, quelli che pagano o sono pagati con una fattura, con un bonifico, pagano tutte le tasse. Avete ragione, mai detto che gli autonomi che tutti gli autonomi evadano, sto solo dicendo che chi si lamenta che è impossibile pagare quello che il fisco vuole si dimentica che c'è un'altra parte del paese che lo fa banalmente perché ce l'ha in busta paga. Livia, resta con noi, non ci lasciar, GR, e poi torniamo con la borsa, con la disoccupazione e con il caso di un analista che, per aver detto la verità su due titoli che poi sono finiti male, Burani e Parmalat, è stato licenziato. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, concludiamo adesso la borsa e poi passiamo ai temi del lavoro. Una risposta la devo dare sul tema dell'evasione, non possiamo fare tutta la puntata sull'evasione e quant'altro, però attenzione, un conto è dire che la lotta all'evasione, l'attività di Equitalia non deve concentrarsi solo sugli studi di settore, degli artigiani e di chi, pur evadendo, evade poco in termini assoluti quando ci sono grandissimi evasori, milionari, e siamo tutti d'accordo. Altra cosa è dire, è attenzione, però il dipendente paga anche tutto, ma non è paragonabile il suo lavoro con quello del lavoratore autonomo che rischia e non ha sicurezza. Cosa vuol dire? Cioè, siccome il lavoratore autonomo rischia, l'imprenditore rischia, ha una detrazione fiscale basata sul rischio. Cioè, non capisco il ragionamento, chi se ne frega, nel senso che quella è l'aliquota e quella devi pagare, punto. Non è che se ho un lavoro rischioso pago di meno, se ci mette, quella fa parte della libera attività, libera professione. Avrai degli svantaggi, rischi, avrai dei vantaggi, puoi guadagnare anche più di un o avere una crescita del tuo salario molto superiore a quella di un qualunque dipendente. Su. Allora, Livia Zancaner, al di là della vicenda Benetton, oggi in pesante calo Fiat sui dati Fiat Industrial, quindi camion e trattori, meno 5,20. Sì, allora, Fiat Industrial ha girato al ribasso dopo la pubblicazione dei conti della controllata americana CNH. La società ha mostrato risultati in crescita nell'intero 2011 con un utile in rialzo dell'85%, mentre nel quarto trimestre l'utile prima delle voci straordinarie è sceso del 13%, quindi è su questo forse che si è focalizzato il mercato e ha penalizzato il titolo, che appunto ha chiuso con un calo di oltre il 5%. Ancora bene oggi tutte le banche, Unicredit più 6,30, Pop Milano più 4,40, dicevamo Intesa più 3,11, dopo due sedute venerdì e lunedì in cui c'erano state vendite o realizzi. Sì, infatti le banche oggi hanno registrato un ribalzo appunto dopo il crollo della vigilia. Unicredit si è mossa strana però, no? Unicredit sì, perché praticamente è rimbalzato sul finale, ha guadagnato il 6%, si sono mosse in maniera strana anche in realtà Mediobanca e Generali. Mediobanca ha segnato un calo del 3,7% e Generali del 2,3% sul finale di seduta. Per quanto riguarda il comparto in generale, le banche appunto sono rimbalzate dopo il crollo della vigilia. Oggi oggi sono allentate le tensioni sui mercati dei titoli di Stato, con lo spread tra BTP e Bund sceso a quota 416 dai 433 di questa mattina in apertura, quindi si può dire che anche... Sì, avevo dimenticato di dare lo spread a 416 punti, fatto bene. Livia, negativa invece la Popolare Emilia Romagna, meno 2,60%, di nuovo forti i titoli del lusso, Ferragamo più 4%, ma abbiamo visto andare bene anche Tod's, che poi è un po' ritracciato, più 0,44%, Buzzi Unicem anch'essa forte oggi. Sì, allora Buzzi Unicem ha guadagnato oltre l'1%, stamattina guadagnava di più. Allora bisogna sottolineare che è andato bene tutto il settore in Europa, quindi lo stocks delle costruzioni. Secondo gli esperti, quindi il comparto negli ultimi tre mesi ha sovraperformato il mercato del 6% circa. Al momento però sottolineano che vi sono leggeri segnali di rallentamento dell'attività negli Stati Uniti e per questo probabilmente alcune società, tra cui proprio Buzzi Unicem, per gli operatori del settore non hanno una sufficiente capacità di generazione di cassa, prospettive di crescita per il 2013 tali da far aumentare la valutazione in positivo sul comparto e quindi sul gruppo. Comunque oggi l'andamento in Europa è stato positivo. Devo dire che poi ci sono cose che non capisco. Per esempio, mi aspettavo che Finmeccanica perdesse oggi in borsa. Perché? Perché il contratto per fornire 126 aerei da difesa, aerei caccia all'India, la difesa indiana, è stato vinto dai francesi, quindi la Dassault con il caccia francese Rafale, e non dai concorrenti Eurofighter, dove c'è anche Finmeccanica. Il contratto vale 10 miliardi di dollari, invece il titolo guadagna, sono contento per lui, l'1,5%. Ultima nota, su Fondiere Assai oggi la situazione mi sembrava leggermente più tranquilla. Sì, allora il titolo ha guadagnato il 12,4% percento circa, si parla 38%, sì. Sì, 12,38%, si parla di oggi vi erano indiscrezioni che riportavano di un possibile intervento del gruppo AXA sul dossier, ma a mercati chiusi Fitch ha abbassato il rating sul titolo, ma che comunque non ne ha risentito avendo guadagnato il 12,4%. Sì, più tranquilla voglio dire che in recupero, mi correggo rispetto al tonfo di ieri su tutti i titoli del gruppo Ligresti. Chiudiamo con Seat Pagine Gialle, più 17,20%, secondo miglior titolo dopo Cobra Automotive. Sì, allora oggi arrivata la proposta finale per la ristrutturazione dell'azienda, una proposta che dovrà essere approvata dal 75% dei creditori entro il 28 febbraio. In questo modo, quindi, in caso di un ok all'intesa, i nuovi azionisti di SEAT saranno i vecchi obbligazionisti. Nel caso in cui l'accordo non venisse approvato, la società rischia, come sappiamo, come è noto, rischia il fallimento e quindi il ricorso alla Marzano. Oggi il titolo comunque ha beneficiato dell'accordo, guadagnando il 17,2%. Grazie a Livia Zancanere. Cambiamo tema, occupiamoci dell'altra notizia forte della giornata, e purtroppo è una brutta notizia, e mi riferisco alla disoccupazione, che è tornata su tutti gli indici ai livelli del 2004, in alcuni casi anche ai livelli del 2001. 349-238-6666 per i vostri sms. Dunque, c'è chi dice: ma insomma, ma se la legge è sbagliata è giusto applicare la legge, fa il caso della pena di morte. Voglio dire, la legge si applica e si rispetta sempre, poi uno può fare petizioni, disobbedienza civile in casi che toccano la coscienza, può fare referendum, ma non mi sembra che la legge, o meglio le aliquote fiscali, siano oggetto di drammi diciamo di coscienza, o anzi mi sembra molto poco in questo paese. Vabbè, disoccupazione. Allora, il dato riguarda dicembre ed è un dato pesante, nel senso 8,9% il numero di disoccupati, ai massimi dal 2004, sono 2.240.000 disoccupati, sono tornati ai livelli del 2001, 20.000 unità in più, 20.000 disoccupati in più a dicembre rispetto a novembre, record di disoccupazione maschile all'8,4%, record anche purtroppo di disoccupazione giovanile al 31%. Il commento del direttore del Dipartimento Statistiche Sociali e Ambientali dell'Istat, Linda Laura Sabatini, al microfono il nostro Alessio Maurizi. Siamo all'8,9%, 2.243.000 disoccupati. Quello che va sottolineato è che c'è stata una crescita rispetto a dicembre 2010 di 0,8 punti nell'arco di un anno e di 0,1 rispetto a novembre. Il tasso di disoccupazione giovanile continua a essere sempre più alto, al 31%. E questa è una di quelle cose che fanno preoccupare di più, il tasso di disoccupazione giovanile, tra l'altro. Non c'è dubbio, il tasso di disoccupazione giovanile è un indicatore particolarmente critico, soprattutto se visto, tra l'altro, in rapporto alla situazione europea. Siamo molto al di sopra della situazione europea, che è al 22,1, anche lì un tasso superiore alla media del tasso di occupazione generale. Ecco, e venendo proprio al confronto con l'Europa, i dati di oggi dicono che l'Italia purtroppo va arranca di più di un'Europa che pure non è brillantissima. L'Italia ha un tasso di disoccupazione comunque che è inferiore a quello europeo. Noi siamo all'8,9 contro il 9,9 a livello europeo, però in Europa questo è stabile, in Italia è in crescita. A ciò va aggiunto che l'Italia ha un tasso di inattività molto più elevato, 37,5%. Perché nel nostro paese è molto alta la componente dello scoraggiamento, chi non cerca più lavoro. Il ritmo di incremento della disoccupazione però nel nostro paese è stato maggiore, nell'arco di un anno si è incrementato di 0,8 punti il tasso di disoccupazione, a fronte invece soltanto di uno 0,4 per quanto riguarda l'Europa. E devo ripetere, non c'è nessuna correlazione tra l'età della pensione in Europa e la disoccupazione. Non è vero, anche se so che può sembrare un ragionamento immediato, ma è un cortocircuito, dire che se tu resti al lavoro 2 anni in più, cioè si alza l'età della pensione, togli il lavoro per 2 anni a un giovane. Ci sono paesi, lo ripeto, e poi passiamo ad altro, che hanno un'età della pensione molto alta e un altissimo dato sull'occupazione, quindi pochi disoccupati, paesi che vanno in pensione relativamente presto, come era l'Italia, come anche la Spagna, e hanno e hanno avuto un'altissima disoccupazione, soprattutto giovanile, perché non è una torta unica il mondo del lavoro, non c'è un numero fisso di posti, non so, 20 milioni. Dipende come va l'economia, possono essere 23 milioni se l'economia cresce, diventano 18 milioni se l'economia cala. L'età della pensione Piace o non piace, non c'entra nulla. Restiamo sui temi della disoccupazione, ma uniamo anche temi classici di questo programma, ossia come funzionano certi giudici del mercato, agenzie di rating, ma anche le società che forniscono analisi. Voi sapete che non voglio ascoltare durante la borsa i report degli analisti, perché trovo gli analisti poco trasparenti, soprattutto le loro società le trovo poco trasparenti. Non si sa mai se mentre danno un giudizio su un titolo non abbiano nel frattempo comprato o venduto il titolo stesso. E tengo assieme i due temi, conflitto di interessi e disoccupazione, perché saluto e ringrazio Andrea Paladini, che grazie, è un... Buonasera. Buonasera, lei ha al lavoro adesso? Io attualmente sono disoccupato. In metropolitana. No, lo dico, no, non se ha al lavoro, se ha un lavoro, mi scusi. Attualmente sono alla ricerca di una sistemazione. Ok, è un disoccupazione. Ecco, la cosa interessante, su questo purtroppo accomuna, purtroppo, sono in Italia la comuna 2.300.000 persone. La cosa interessante è perché lei ha perso il lavoro. Lei ha perso il lavoro, adesso ce lo racconto con calma, perché i suoi giudizi come analista di un importante sim su due titoli che si chiamano Burani, indagine della magistratura, e Parmalat, indagine della magistratura e processo già nella fase d'appello, non sono piaciuti alla società che lei andava a analizzare. E qui iniziamo a introdurre il tema del conflitto di interessi. Se chi tu analizzi è quello che ti paga la commissione, vale per Standard & Poor's, Moody's, ma vale anche per le società di analisti, c'è un grosso potere di ricatto. Ne parliamo dopo il traffico. Allora, per capire la portata di quello che stiamo parlando, vi faccio riascoltare però anche un passaggio di un documentario che più volte abbiamo pubblicizzato, Inside Job, Oscar come miglior documentario nel 2011, questo passaggio su quanto hanno guadagnato le agenzie di rating nei periodi della cuccagna, dando giudizi, sentite. Le tre agenzie di rating, Moody's, Standard & Poor's e Fitch, guadagnarono miliardi dando il massimo dei voti a titoli rischiosi. Moody's, la più grande agenzia di rating, quadruplicò i suoi profitti tra il 2002 e il 2007. La Moody's e la Standard & Poor's venivano ricompensate sulle basi dei rating che davano, e più AAA davano, più alti erano i guadagni per la società. Immaginate di andare al New York Times e di dire: se mi scrivete un articolo positivo vi pago $500,000, se non lo fate non vi do niente. Le agenzie di rating avrebbero potuto interrompere la festa e dire: ci dispiace, dovremo alzare i nostri standard, e tagliare immediatamente il flusso di finanziamenti verso mutuatari rischiosi. Gli strumenti valutati con la AAA passarono da una manciata a migliaia e migliaia. Centinaia di miliardi di dollari venivano valutati... Ogni anno? Ogni anno, sì. Ho testimoniato di fronte al Congresso e alla Camera dei rappresentanti sul problema delle agenzie di rating. Ed entrambe le volte i loro avvocati hanno tirato in ballo il primo emendamento, rivendicando il fatto che il loro giudizio di AAA era solo la loro opinione e che le persone non dovevano basarsi solo su di essa. I rating esprimono un'opinione. I nostri rating sono la nostra opinione. Opinioni. Opinioni non sono altro che opinioni. Credo che abbiamo enfatizzato il fatto che i nostri rating sono opinioni. Allora, Andrea Paladini, le ricorda qualcosa questo? Sì, direi proprio di sì, nel senso che comunque nel mondo degli analisti c'è un problema ormai da parecchi anni legato ai conflitti di interesse, nel senso che in due parole, da un lato molto spesso la ricerca viene utilizzata soprattutto in realtà come strumento per ottenere altri incarichi, ad esempio di finanza aziendale, per non so, l'emissione di un bond, oppure per ottenere diciamo altra assistenza di carattere finanziario da appunto dal cliente. Quindi praticamente, cioè, io emetto un giudizio abbastanza buono con te, in cambio poi tu mi darai altri incarichi, altri lavori. Esattamente, quindi la vecchia storia dei cosiddetti report addolciti, per usare un termine molto... No, ma molto, mi racconti, lei lavorava a Centrobanca, giusto? Io ho lavorato per un periodo anche a Centrobanca. No, ma mi dica, lei doveva emettere dei report, cioè delle valutazioni su due titoli. Uno si chiamava Burani, l'altro Parmalat. Che le è successo con Burani? Ripeto, Burani poi è fallita, è libera in tribunale, è un disastro. Non stiamo parlando di Angioletti. Prego. Allora, quello che è successo è che in sostanza nel momento in cui io sono entrato in Centrobanca, diciamo che sono partito per avviare la copertura sul gruppo Burani, e nel momento in cui ho chiesto di incontrare il management non c'è stata alcuna risposta direttamente, ma c'è stata una risposta indirettamente tramite il responsabile della ricerca italiana di Centrobanca, il quale mi ha risposto che ero analista non gradito, in quanto già dal 2002-2003 io ero l'unico analista ad essere sell sul titolo Burani, che diceva che andava venduto il titolo e non comprato. Esattamente. E complimenti. Ma questo le è avvenuto anche con Parmalat? Questo era avvenuto in precedenza con Parmalat, nel momento in cui, diciamo in una maniera un pochettino diversa, nel senso che in quel periodo lavoravo per un'altra, diciamo, nota sim del mondo delle popolari, e in quel contesto mi era stato fatto notare che comunque non avrei dovuto ostacolare il lavoro di altre funzioni aziendali che cercavano di, per esempio, non so, accaparrarsi un incarico di fare liquidità sul titolo Parmalat piuttosto che diciamo altre operazioni simili. E questa vicenda peraltro si è ripetuta sempre presso la stessa società anche per quanto riguarda il gruppo IT Holding, che poi è stato altro gioiellino. Infatti, e in quel caso c'è stato proprio un interesse diretto, addirittura a livello di amministratore delegato della stessa società di intermediazione immobiliare, il quale ha fatto forti pressioni sul sottoscritto affinché emettesse un giudizio positivo, tra l'altro pressioni fatte anche in presenza durante un incontro con il management della società. Ma chi perna? No, ho incontrato praticamente il direttore finanziario e il responsabile dell'investor relations. Allora mi dica, in tutto, siccome lei o ha molta sfiga, mi scusi Paladini, perché va sempre a analizzare società che poi finiscono con i libri in tribunale, con inchieste della magistratura, con arresti, Burani, T-Holding o Parmalat, allora ci dica qual è la prossima che analizza, così vendiamo subito. Oppure lei mi deve spiegare che cosa è successo dopo che lei ha continuato a dare giudizi, immagino, sulla base della sua coscienza e non sulla base delle richieste. Com'è che hanno fatto farla fuori? Ma il discorso è che comunque, come dicevo, stante questo interesse primario delle società, quindi delle banche d'affari, di utilizzare la ricerca come strumento per ottenere altri incarichi, in realtà diciamo sei abbastanza ostacolato o pressato nel momento in cui cerchi di dare un giudizio che sia così, diciamo, unbiased, come dico io, cioè indipendente. Sì, ma come hanno fatto a comunicarle che lei non era più gradito non solo da Burani, T-Holding e Parmalat, ma non era più gradito in generale? Per il caso Burani mi è stato comunicato, come dicevo, direttamente dal responsabile della ricerca allora in Centrobanca, che è tuttora responsabile nella stessa società. E nel caso invece di IT Holding e nel caso di Parmalat, diciamo che persone all'interno della struttura mi hanno fatto notare che avrei dovuto prendere, diciamo, una piega diversa, ecco. Vabbè, ma io voglio sapere, lei tra l'altro è stato chiamato dal PM Orsi come testimone d'accusa, tra l'altro nel processo Burani, quindi stiamo parlando di cose serissime. Mi dica un'ultima cosa perché ho un minuto scarso. Poi lei, insomma, ha perso il lavoro, come gli hanno comunicato, dicendole così, siamo in troppi, tu sei l'esubero, chiedo? No, allora, diciamo che nell'ultimo caso parliamo appunto di una grossa banca estera, mi è stato così, hanno trovato in sostanza una scusa abbastanza risibile, dicendo che io ero uscito con un timing sbagliato su un report praticamente basato su Parmalat, ecco. Hai capito, era il timing che era sbagliato, Parmalat, non il report. Parmalat Senta, ritorna, se... ma in realtà il report è stato redatto secondo tutti i criteri della MiFID e avvistato tra l'altro dall'internal auditing e per cui sono stato costretto a citare in giudizio la banca stessa. Senta, le cose sono cambiate negli ultimi anni secondo lei? Le cose non sono affatto cambiate, sono peggiorate dal mio punto di vista, c'è più spudoratezza nel fare queste cose, in parte sapendo di essere impuniti, e peraltro io ho ricevuto, come le dicevo, dall'ultimo mio datore di lavoro, questa banca, un'altra banca estera, da alcuni esponenti delle minacce dirette ma delle quali mi è stato detto che se io avessi fatto l'esecuzione di giudizio loro mi avrebbero fatto terra bruciata attorno. Perché con vuole dirci il nome di questa banca? Ma sì, in questo caso stiamo parlando del Banco Santander. Ah, ecco, vedi che una faccia, una razza. Anche gli spagnoli. Paradini, la riavremo ospite, perché io invece vorrei averla come consulente sempre di questo mondo fantastico in cui tu giudichi uno che poi è lui che ti paga le commissioni, però tu sei così bravo e super partes che anche se ti paga tanto sei cattivissimo con lui. Grazie intanto Andrea Paladini, da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.